Amore, ma teneva un cadenato, ho detto basta, ma sono liberato. Ma pare che lucendo cielo, ma pare che tutti in umane, e ho cuore canta la felicità. Che lalla, che lalla, o pare che ne camo lazzato. Se crede che mi faccio sangue amare, se crede che impazzisco e poi mi spara. Che lalla, che lalla, non sape che piacere che mi fa. Ma ne viglia la più bella e zia la estia. Che lalla, che lalla, che lalla. Che lalla, che lalla, che piacere che mi fa. Che lalla, che lalla, che piacere che mi fa. A ieri mi ha mandato un biglietto, poi migliore portiere di rimpetto. Mi scrive non è felice, mi dice che non trova pace. E mo mi sto costando la libertà. Che lalla, che lalla. Muore c'è ne camo lassa. Se crede che mi faccio sangue amare, se crede che impazzisco e poi mi sparo. Che lalla, che lalla, non sape che piacere che mi fa. Ma una migliorata più bella e zira la restera. Che lalla, che lalla, che lalla. Oggi stanno suonando i mille mandolini di Napoli. Roselle Moccia. Che lalla, che lalla, muore c'è ne camo lassa. Se crede che mi faccio sangamare, se crede che impazzisco e poi mi spare. Che lalla, non sape che piacere che mi fa. Ma ne piglia nata più bella e zi della estera. Che lalla, che lalla, che lalla. Che lalla, che piacere che mi fa. Che lalla, che piacere che mi fa.